Voci in scena di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola. Tornano gli appuntamenti delle feste con le nostre voci in scena, i grandi protagonisti dello spettacolo. La voce in scena di oggi è quella di uno dei più grandi cantautori italiani. Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni... È nato a Modena nel 1940, debutta nel 1967 e in una carriera ultra quarantennale pubblica oltre 20 album di canzoni. È uno dei più grandi cantautori italiani, ma da poco tempo ha deciso di essere solo scrittore. Il suo primo romanzo, Croniche epafaniche, pubblicato nel 1989, trattava vicende passate di Pavana, il paese simbolo della sua infanzia. I racconti del passato sono anche nel suo ultimo libro, Un matrimonio, un funerale. Per non parlare del gatto, uscito nel 2015 come la raccolta di CD Se io avessi previsto tutto questo. Lui è Francesco Guccini. Sono nato a Modena, ma sono nato il 14 giugno del 40, quattro giorni dopo l'entrata dell'Italia in guerra. Fra l'altro, il 14 giugno del 40 è stato operativo il campo di Auschwitz e quindi c'era la guerra, insomma. Mio padre era già in guerra. E mia madre, con la tessera, la paura delle città, veramente mi ha portato dai nonni paterni in Pavana. Tutti questi racconti, parlano di un mondo che non esiste più. Queste vite, questi modi di vivere, di essere, di raccontare, che ho sentito raccontare fin da quando ero piccolo, sono un patrimonio per me grande. Sono convinto di aver vissuto in una specie di età dell'oro mia, da bambino, da ragazzino, insomma. Mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più di un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa, siano stati libri o il mio provincialismo. È un cazzo in culo e accuse d'arrivismo, dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vossia. In tutti questi anni ho sempre scritto, primo racconto, uno dei racconti è stato scritto nel 60, ma ho sempre continuato a scrivere. Scrivo forse perché poi nella scrittura sono ancora abbastanza fresco, insomma, cioè non... delle cose da dire ne ho ancora tante e quindi ho ancora voglia di scrivere e mi diverto ancora a scrivere. Fra l'altro mi è capitato poi un incontro con Loriano Machiavelli di Passare i Gialli, ne avevo già fatti 7 di libri gialli, primi 5 con un carabiniere come personaggio, il maresciallo Santovito, e gli altri 2 con un ispettore della forestale. Stiamo progettando il terzo, poi si interromperà anche questa serie con l'ispettore della forestale, ma scrivere mi piace ancora, mi diverte molto, insomma. Ho visto la gente bella mia andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, e alle notti che dal vino son bagnate, lungo le strade da pastiglie trasformate, dentro le nuvole di fumo, nel mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà, e un Dio che è morto. Quando pensavo, per esempio, a un argomento, mettevo lì con la chitarra e provavo una melodia su un giro d'accordi, un certo numero d'accordi, e contemporaneamente mi veniva o non mi venivano le prime parole, la prima frase del testo, insomma. E poi dopo era abbastanza facile andare avanti, ecco. Se si pensa che la locomotiva, come ormai ho raccontato talmente volte, l'ho scritta, ma io credo 20 minuti e mezz'ora, ho scritto, sono 13 strofe, e l'ho scritto in 20 minuti e mezz'ora, cioè che proprio era un argomento che era dentro, è venuta fuori come un treno, proprio parafrasando la locomotiva. E quindi altre canzoni invece prendevano più tempo. Scrivevo, poi mi fermavo e magari dopo un anno, 2 anni o anche 10 anni mi veniva in mente, mi tornava in mente e la finivo, insomma. Oppure le ultime canzoni difficilmente le ho scritte lo stesso giorno, le finivo sempre il giorno dopo, perché quasi mi stancassi, quasi facessi fatica a completare la canzone. Era già lì, quindi bene, adesso posso riposarmi, poi non avevo una fatica, insomma, comunque continuo domani, ecco, quindi magari ci metterò due giorni. Ma l'urgenza delle prime canzoni era fantastica, insomma, andavo via liscio, ne ho scritte tantissime anche in brevi periodi di tempo. Solo che è difficile, non mi metto lì con la chitarra, non ho nessuna voglia di fare canzoni, mi mancano anche, gli argomenti ce ne sarebbero, tantissimi insomma, perché anche la vita quotidiana, gli ultimi avvenimenti, insomma, ma non ho più quel desiderio di raccontare con una canzone. Ho il desiderio di raccontare in un libro, ecco, quello sì, ma libri poi sono un'altra cosa. La canzone, o almeno per me, è sempre stata più difficile della pagina scritta. Perché la pagina scritta, uno può scrivere una pagina, due pagine, tre pagine, e raccontare con le parole, ampliare, tirar via, insomma. La canzone invece deve essere sintetica, anche se sono canzoni lunghe quelle che ho fatto io, le canzoni di anche 9-10 minuti, insomma. Ma la canzone deve essere sintetica, si parte da un'idea, ma questa idea deve essere condensata in strofe, in versi, in rime, ho usato moltissimo la rima, la sonanza, la rima interna, eccetera. E quindi è più difficile, però quando esce la canzone, insomma, da una certa soddisfazione, fa piacere cantarla, farla sentire agli amici, guarda, questa è l'ultima canzone che ho fatto, e poi metterla in un disco, che ascoltavo però appena il disco era fatto, per la curiosità di vedere come era venuta fuori, soprattutto le prime volte, e poi dopo non basta, non ascoltavo più le mie canzoni, anzi mi dà un certo fastidio magari entrando in un ristorante per farmi un omaggio mettono su una mia canzone, dico no, per amore di Dio, tiratela un po' via. E quindi è difficile che adesso mi venga una canzone. Un giorno il cielo si aprirà e l'aria a fuoco riverrà, anche la luna incandescente sulla terra cascherà, quando la polvere sarà la sola cosa che vivrà, e non si troverà più niente della nostra civiltà. Quando cadranno le città e nessun uomo non potrà fermare la mano che cancella l'impotente umanità, allora il mondo finirà. Beh sì, mi manca il rapporto col pubblico del concerto, ma mi manca soprattutto l'incontro con i miei musicisti, prima e dopo il concerto, le battute, gli scherzi, i giochi che si facevano. Certe canzoni invece non è che le cantassi senza averne voglia, a volte sì un pochino, ma per esempio c'erano quando arrivavo, subito cominciavo a cantare, c'era sempre qualcuno che diceva la velata, la velata, così urlavo, e io non la facevo mai la velata, l'ho fatta una volta per gioco, e c'è nel pezzo dal vivo a rap, come che fosse stato un rap, insomma, ma a metà canzone mi sono fermato e abbiamo continuato in maniera normale. Oppure un altro diceva di è morto, e la battuta era, ma tutte le volte che l'ho visto stava solo poco bene, non sapevo ma c'erano battute che scambiavo sempre durante gli spettacoli. Forse anche tu qualche volta ricordi in via dei poeti la nostra osteria, forse ricordi anche i giorni in cui noi ci facevamo compagnia, una chitarra e un bicchiere di vino, quattro parole d'amici, ma quando allora sedevamo vicino forse eravamo felici. perché è cambiato tutto il mondo discografico. Vanno i famosi talent show, come si chiamano, dove vanno questi ragazzi, fanno questi pezzi, vincono il concorso, poi se funzionano bene, se non funzionano spariscono completamente, insomma. Mi sembra che sia molto spesso anche una, come posso dire, un favorire delle illusioni, perché molti vogliono fare il cantante da grande, cosa che io invece non volevo fare tutto sommato, anche perché poi c'è sempre un'educazione familiare di un certo tipo, per cui c'è la famosa frase: che cosa fai adesso? Faccio il cantante. Sì, ma di mestiere cosa fai? Cioè, non era considerato un mestiere. E quindi i miei, insomma, se ricordo quando tornai da Milano col primo contratto fatto con le edizioni, però, con la voce delle padrone, della EMI, mi davano 100.000 lire al mese per l'esclusiva dei pezzi che facevo. Io felice, allora, 100.000 lire era una bella cifra, allora non era granché. E dissi a mio padre, guarda, mio padre dice, sì, ma quanto durerà? Sole più vasta del mondo.